Gente di passaggio, vai! L'ho accesa adesso, me lo fai nella doccia. Fra 5 minuti faccio la barba, un giro di rasoio. E la passi a casa. E qui tu in campagna ieri? No, sto facendo cosa qua. Ah, ti senti da frate, sì. Grazie alla se senti da farato, hanno entrato oggi, grazie, povero dici, grazie alla vasega in campagna. No, non ci vado in campagna ancora, oppure la verdade, no, ogni dato fuggire da dritta, vai una cosa non mi serve se la posso un po'. Barattoli, vernice che non uso più, ma è buona, mica per un'altra volta. Stai fatta a barare in campagna, cosa che non adopero più qua a me, ma ci vengo giù pure la motosega. Addirittura? E ora mi ne voglio, stati campagna, l'albero si è fuggato già, a casa cresce saranno morti due volti, cosa me la tengo a fare in garage? E lo dai a tuo cognato? Na quattro, chi dà su me ena una regina, a chi vuole accusare che lo va a fare quel lavoro, fa un'impresa, no? E fare di tutto. Dunque, a gara dopo, la giovata in dinata, dammi 80 euro e poi la decina. Ah, ma chi se lo dovessi dare a tagliare il trucco di capo, di capo? Ma che bastiglio, una gara si la batta da sotto la veranda a bussare la sdraio con l'ombrellone. Mi viene il macco, mi comanda la bacchetta e cresce la gavra. Mi dice, oggi voglio 10 fondi di lattucca. Allunga la bacchetta e esce la lattucca. Ah, così è. Allora il furbacchione. E allora, mica travaglia, allora gli anni fumi, fa la bacchetta magica, va. No, non sapeva che era così, c'è. E devi vedere come te lo obbediscono, se no riminazza già pure, ti fa sbassare un trattore. Cazza, bebe. Vabbè. Allora hai fatto in dirà subito, no? No, cosa me ne faccio? No. Fatti nella città da Usiria, in garage, a ruinarsi all'azzurra. E la roba nuova, siccome l'avevo portata a pulire il carburatore, sai che c'è di la Buddhi, l'ultima volta l'ho trattata, 2 ore. Poi se andavo a pulire la moto non partiva, di questo biglia miscella, dal tubicino. L'ho portata, quella mi ha pulito il carburatore e mi aveva cambiato il tubicino. sta per 13, vada a Miranda, te aveva fatto 40 anni. E gli porta in garage, boh, era sempre in ferma, tra l'altro la busca. E beh, se non andò in CB, cosa li fai, infatti? Hai fatto bene, l'hai fatto. E pure una su 3, anzi 4, una su 4. Piccio, anche quella elettrica lunga, anzi ne ho due a miscela e due elettrico ne ho, così che ne ho una piccolina delle Melitte, niente meno, io l'avevo abbigliata quando abbia giù fatto la cabina allo stesso pettine, contenta, mi dicevo. È ancora funzionanti ed è un bombo. No, questa era normale, la lama era da 80 e la catena pure l'avevo fatta mettere nuova, quella manco un taglio aveva fatto con la catena. E mi ha aiutato a te, se non ne uso cosa me ne faccio? Tu al limite già le usi ancora, che cosa gliela fai? Ma io non li posso farlo. E poi in campagna cosa l'ha tratto? Se ha già tutto buttato, oh, me cugnato, gli alberi sono normali adesso, quando ha cresciuto, ho venuto a tagliare, qualche pedana gli ha sentito tagliare, e lui all'altro molto serio. E hai fatto bene, l'hai data, hai fatto bene. Io ne avevo preso una, e mi dite, ma te si sarà bricco lì in città mercato, quindi era due tipi, una panna e una minore. Cata, e ha giubilato chissà media e l'abbia pagata, cioè, mi pare 100 euro l'abbia pagata e ancora senza la scatola in occhi e non l'ho mai provata, ancora senza la scatola, ma che ha messo la scatola l'ho mai, capito? Si può immaginare? No, questa l'abbia pagata di più di 100 euro quella lì, l'avevo presa ai punti da Pinuccio Sanna e l'abbia preso via Sassari da quel negozio lì, e anche il decespugliatore lì due ne avevo comprato, quello che ci ho buttato e quello che ci ho in garage. Se a cazzo mi vedo burrovisci, cosa cazzo me ne vuoi? E alla taglia venne i buti a virare il decespugliatore, cosa me ne ha? Ehi, è vero, non ho tre. È un nuovo lupo, mai trattato, al piso da 44, mi fa immaginare. E due a 34, Nancy. Ma io sono a 44, alpino, bianco, cazzo, è un nuovo lupo, non l'ho mai trattato. Io sono abbigliato, che era in offerta, iniziale il porto storico, c'è questo negozio che ha attaccato, come si chiama, chi sono? Era in offerta ed era l'unico che aveva detto, vabbè dammi, e me l'ha fatto pagare, mi pare 180 euro mi pare, e non si è mai trattato, anche lì per lo visto è trattato la cattola. Già me lo ricordo, quel negozio era deciso di Rulignano, che ha sarrato, già me lo ricordo quel negozio. Vabbè Giomare, ma tu ancora che cosa gli altri la fai? Solo cazzo, avevi tre cosa devi fare, quando non hai due, uno si ricambia, se ti si ferma lì, ti viene a fare i buchi, anche le motoseghe, quando non hai due, se una ti si ferma, abili l'altra, ma a tre e quattro, cosa ne fa? Oh, sì. No, ma tu già sei usi ancora, ma io non ne posso trattare nemmeno, pure usandole, dove le uso, in campagna non li tratto. Sei tutto tagliato. Faccio, visto che ha giubilato ultimamente, pure elettrico. Cadde. Da poco mi abbricco Felix, tu devi pigliare la moletta e perché io la disco, cosa mi ha giubilato la sega elettrico? Il motosega elettrico, chissà allungabile, capito? Ma pure vista è il villaggio di campagna, vista è in campagna pesante, è 4 metri lunga, no per la posti, infatti vista me la vendo va, e mi lascio vista che ho comprato là ultimamente. Ma io adesso quando vado, che esco, mi compro la moletta e quel disco a catena che taglia la legna, se devo tagliare qualche pezzo di legna, pongo il suo disco la moletta e lo taglio, capito? Ce l'hai preso, non ce l'hai tu quel dischetto che fa catena motosega, che si attacca la motosega? Ce ne vendono anche quello, mi. Sì, io volevo fare, la campagna, prima o poi, sì, si capisco, sì, tu la mano ti voleva usare che c'è il frizzi, no, no, saranno. È chiaro, cosa ne fai? Non fai niente. Se non fai accusare i parenti tuoi, che li tratta, li puoi dare i parenti tuoi, ma tu non li tratti, no. E se non lasciate, ti rivendi e fai me. E fai me, cosa ne fai? Nulla, non è vostro, Giovanni. Cazzo, io gioco di butti a rischio, 24 ore su 24. Mi paro un colpo e mi si ritacca in culo. Mi rivendono, non me ne affuttino. Tanto, nessuno li vuole. Chiedono, anche volendo dargli, gliela bocca se la voleva mettere, non li vedi a nulla che vira. Ti dà, subirà, e allora te, dammi a tattare e buttati in silla. Spera pure lo scontrino, era a cazzo, la banda da vini. Ehi, io che hai fatto bene, che l'hai dato, va. Io anche lo sento, io la forza ancora, così che no. Ma perché non li vedo? Se non fossi io a me fermi sicuro pure fare la campagna di un burro per cui ma le malegate se la boccia è due e si arraglia è due, capito? Per cui a vendere non li vedo e se la bila a Napoli cazzo non li tratti si muove tutto è due e vedi tu hai diverso, tu fai un figliolo, un maschio. Al limite all'indomani già si può niente da fare in campagna e tutto, e gli si finì di ferro. Ma io a cavaggio, a me vedevo sono femmine, mica andano a tagliare l'erba. Pure se alla seconda mi aveva fatto qui, ma non è a tempo, no? E la presa è per una femmina e non è che fare in campagna a tagliarsi l'erba. Quello travaglio che fate, non ha tempo manco di cagà. Ma è facile così, Aspetta, mi do un po' se c'è Tore. Tore! Marco, ma chi si ho? Chi ci sei impegnato ancora da Grazia? Ma chi ci si inizierà a sentare con la vetta di Ibe? Capito, oggi non c'era freddo. Piano piano, se ne salirà adesso che è curighenne. Se no, ma chi ci ha già usato fino all'ultimo minuto in campagna? È facile, specialmente quando sono giornate così, già va bene. Tore si sa che Tore è abbonato ai nipoti, a portarli a passeggio, a giocare, allenamento, da poi fare un cagnolino, e io da poi devo andare a pigliare la moglie, e se prende le torrente e da farato. E io la manco si tiene in movimento sempre, la manco si tiene sempre in movimento, adesso è tutto a fare. Da che ha detto in pensione, lui ha tutto a fare in casa adesso. Che li combinava che rimaneva a travagliare, mi sa ancora. Chiaro manco travagliava a Chizzuri. Io non che travaglia 24 su 24, ma... Così che tu eri tutta la vita zapparato, ti usci. Mi ho controllato, non ha più finito. Quella mensola che c'ho nel terrazzo dietro, un invaggio di vernici, ferri ci sono. Ma che cosa c'era giù lampada, buru? Pure si lavora, cosa me ne porto? Non ne tratti più per qualche barattolo di vernice che va via da me, però è buono, c'era giù lampada. Ma che cosa c'era giù barattolo di mio figlio in casa e si va in campagna? Ma che lui se la tratta e se lo da bui, si lampada, cosa me ne porto? E io lo devo fare. Piano piano, so che a te ne gitte. Prima mi si via, ma non ne posso nulla. E se non lo amo. Ribaracchini pure si vende, va. Là, tutto mi vendo. La di chi vende, chi sa mica, di me migliora. Posso la bancata, bongo tutto, in nata la banca. Posso rivolto e rivendo. Si rivendo, rivendo. E se no, si rifare in casa e si prende chi. No, mi tengo solo quelli là, cosa me ne faccio di tutta questa roba? Imbarazzo, no, è pieno su internet, compro e vendo pure dei baracchini, quindi era uno 300 euro, però era enorme quel baracchino, doveva essere buono. come quello che sta vendendo Luca, ti dice costa 400 euro Luca. Ed è nuovo, ed è nuovo. E per 300 euro ci può finire a pacchetto apparecchio, c'ha tutto quello lì, Ce n'è uno che è, questo tipo è di Oristano, un signore, c'è anche la fotografia di quello lì. È bello, è tipo, è grande con tutti i tassini, c'ha un sacco di cose. Adesso non mi ricordo che marca è. Lo sta dando 300 euro lo sta dando. Ma è nuovo, si vede, non va un pizzico, che come è anziano, c'è la fotografia del padrone. E le vendente, di Oristano. E chi ne compra? Oh, io non ho comprato più niente nessuno, no, specialmente baracchini. Bene, avevo la vetrinetta, tre buone vetrina, e da tutti i chili. A che tanto non ce li vendi, non li compare già nessuno. Se non li vendo, fanno il tuo pedini lì, 30 l'uso falso. E chi c'ha cassa panca, prendi una cattura di manna, se ne pongo testa e se ne va a ringalare, giù e giù male, che la gatta si piglia, se no si rilampa, cosa mi ne ha. E io ci provo. Posto un blocco, assai. E se sta là che ammazzare, manco mi corrubrisce, cosa mi ne ha. Tanto mi sono pagato e non mi interessa più. Mi tengo quello là che ho preso insieme al tuo. E gli do minoreggio. E chi tu con la camera, ecco, lo zodiaca. E quei portatilini che c'ho qui su quei di BMR, e quello là, chi si è? E un burro di boccia la macchina, e che non tocca più zodiaca, ed è completa con la camera, ecco, per l'M più 4, il microfono suo originale. E tutto, che lo cambiava, e senza la Mario, tranquillo e pacifico, non lo so più io, manca a provarlo più. E infatti ne lo devo bigliare da un'altra mensola, di Rusalone, lì lo compito e la seguì baracchi, là così ho rubito pure, quello lì al limite lo metto da parte, tanto non lo sto usando, l'altra volta lo vorrei abbigliare tutti, cazzo, vado a pulire la batteria, mi faccio abbigliare il suo nuovo. Il suo romano, questo che fai tu, questo è buono a radio, cazzo, quello sono apparecchi completi e per cui moderni, quello dice bisogna andare sottino, non si sa mai, capito? Quello è un bel apparecchio, per cui non dà a nessuno visto. No, quello me lo tengo a chi scemo, l'ho comprato apposta perché c'ha tutto, fa le mie amiche, e con questo fai tutto, cosa, pure si avanno, non so cosa tenere, ma appena fatica me lo sistemo lì qua nella veranda dove ho messo quel mobile, e tutto l'estate lo posso usare in veranda, anche il PMR quello là. Appena pongo il filo, metto il deviatore da qui, da cucina, uno spezzone di filo e me li uso. Invece di candele e torre, tutto il periodo si può, altrimenti me li punia in veranda. Ehi, io me la metto. Dunque, in estate le busso pulire, non bene freddo, da tanto abbasso la tenda, abbasso il sole, e poi li sabbetti tranquilli. Ma è vero, non può lasciarli, capito? Ecco, a chi virà giù in trappunta d'inverno. Ma il chiudiale, hai visto, li lasciamo sempre lì. Non li fermo niente, Graziano, non li fermo niente. Basta uno, è anche troppo buono. Così che... Uno no, da due, uno conservato di scorta, ogni dato magari ne vuole pure a farlo funzionare, ma già funzionano sempre. Anzi, chi si vince, funzionano meglio di chi si nuove, chi se lo si faccia le mai. C'ho anche i due inoiti, mi lascio da candelo in casa di mamma e funziona sempre. E chi se lo sta giocuto dentro la casa a panca. Ho messo una scatola ed è dentro lì, tutto completo. E non ne ho più usato. Oh, c'ho quel portatile e funziona benissimo. Con la 23 canali. Ma non posso stare tutti questi baracchi in mezzo al bigno. Ah, uno l'aveva regalato buru a Luca, l'aveva dato buru tutti gli antenne di macchine che aveva comparato, l'essilio. Oh, tutta questa roba l'aveva da Luca. Cosa me ne fosse? Ehi, ehi, ti accetto 10 minuti, grazie. E tanto mi faccio la barba, se no domani a Mazzano, adesso ne approfitto, così non mi taglio. A dopo, va. Ebbè, Filippisto! C'è nessuno? Fore, ci sei? Ciao Mari, mangiato sta. Grazie. E dimmi Gio Mari. Sì, vai, sto chiedendo questa gente, vai, ci sentiamo domani. Ok, saluto in casa, grazie. Ehi, ciao, vado domani. Sono stato entrato vicino, adesso lascio un altro po' acceso, se trova alcuno. A domani, buona cena, buon tutto. Tore, è arrivato, sì. Avanti. Chi è? Chi è Pruschia? E beh, bella gioia, come andiamo? Ciao Mari, mi. E cosa? Ci andiamo bene, da? Meglio di prima, piano piano. E beh, e allora? Io mi ho messo fuoco adesso. Ho tagliato un po' di rami da confinante stasera. E ne sto approfittando, ho fatto un bel fallo, ogni tanto esco fuori, me lo controllo, già sta bruciando bene, là diciamo, ah, manco bruciato fuori le scatole. Fatto bene, è meglio che ne approfittato oggi, che è una bella, bellissima giornata, hai fatto bene Marino, e cosa controlli, intanto vento non finì, già se si muore la rasura. E vabbè, meglio controllare ogni tanto, no, ma il fumo già stanno dritto. Il fumo è nel dritto, io prima di bruciare controllo, c'ho il confinante, non mi piace, sa, la sua cosa ci posso fuoco quasi vicino a Edue, siccome lui c'è una casa in legno, bella, una bella casa in legno, e ha capito? E la già fumeggata, chi lo è in treno, un fumo da sotto, non è in treno, fa 4 milioni di vermi, va, ma là è tanto affumeggato, là, dunque sto più attento adesso, là, siccome è una persona squisita e abbastanza in gamba, capito? Là? Abbiamo un ottimo vicino, un ottimo rapporto, dunque sto attento, no, ma adesso l'ho fatto l'altra parte, hai capito? Il fumo ho visto, l'ho fatto, sta salendo in alto, già non dà fastidio a nessuno. Nessuno è entrato, grazie. Ehi, Gio Maria, mi ho fatto la chiacchieratina, ma ho 10 minuti, poi è venuta gente, si è assentato, e ne ha approfittato a farmi un giro di barba. Però poi mi ha chiamato che chiudeva, ci sentiamo domani. No, ho fatto un po' di chiamate a Torre, a Bacchigio, evidentemente non c'è nessuno. Oggi è sabato. Vabbè, oggi è sabato, magari stanno facendo cose, magari anche chi si non so. Io non so neanche che ora è qua, figurati. Ho lasciato il cellulare sopra, non so neanche chi ne sono, figurati. Ho visto dal buio, ho preso, acceso, tranquillo, sereno e ciccia. Ah, manco un su fuoco, manco domani più pulito. Vediamo se c'è Bacchigio in ascolto. Attento gigante. Attento gigante, cambio. Attenzione, squalo. Non c'è nessuno. Tutti a riposo, avanti, grazie. 2 minuti, poi anch'io chiudo, dai. Anche io mi stavo per chiudere, l'ha detto, vabbè Giammare, che l'ho salutato. Lo lascio altri 5-10 minuti qua acceso. Tanto ancora è presto. Poi c'è l'ultima, ha giudinato la pizza, dunque non me ne ha tutti nulla. Niente. Va bene. E cosa vuoi fare? Boh. Mi ho fatto la barba, tutto bello rinfrescato, doccia. E cosa faccio? Niente. Mi sto guardando il telefonino, ogni tanto la TV. Poi già va bene, dai, la signora come sta? Si è ripresa la signora, sì? Sì, a posto, era ora, già si è ripresa, pure già si è preso medicina, riosone, piano piano già si è ripresa. Ah va, Adesso l'appuntamento alla pulmologa me l'ha dato in aprile, il 29. Ehi, il 6 devo andare da diabetologo e alla prossima settimana mi faccio le analisi a chi ci vuole pure le urine delle 24 ore, dunque me le faccio l'altra settimana, così per le 6 ce le ho già. Già pronto, e io invece io il 20, il 21 sono uscito dal lavoro, ho parcheggiato la moto, ho timbrato, ho filmato, mi è venuto la manzinetta all'anchi, proprio tipo come l'altra volta, no? Tipo l'altra volta mi sei da pressione, una debolezza, non vedevo più nulla, c'era un collega, mi ha detto compagno, no, aveva giù fatto, ho giù vedo la macchina, piano piano, giù vado a casa, ho fatto, arrivando a casa, ne ha giù cazzato, i zebelli hanno giocato, ma roba nuda che nello stomaco non c'era niente, figurati, era solo acido e basta. Sono salito a casa, avevo la pressione un po' alta, mi sono appoggiato, piano piano, mia figlia mi ha dato una cosa per il rigetto, da buona mezz'oretta ho nuovamente rigettato tutto quello che non c'avevo, nulla, era solo acido e basta. Mi sono appoggiato un paio d'ore, poi mi sono alzato già al momento, ero giallo, la cosa mala, giallo. Adesso ho preso un po' di freddura e boh, mi è alzata la pressione, a cosa mi è alzata. Ma appunto sono andato dal medico ieri, fuso di malattia, rientro mercoledì a lavorare, adesso. Mi ha dato 5 giorni di malattia, di prendere una pastiglia, la pastiglia della pressione, la stavo già prendendo. E mi ha detto, probabile sia, magari ho preso un po' di freddura, capito? Ma adesso già sto bene, dai, avanti. Ma stai attento a questi cosi, mica la pressione è l'occhio, io prendo la pastiglia, una notte la biglio, mi faccio l'insulina e dopo mi prendo la pastiglia della pressione. Quella già so una di pillene, la so anni. Perché prima a me mi ha fatto così, come ha fatto a te, e la cosa era dalla pressione alta, e allora io la prendo ogni notte la prendo, qualche volta che mi la dimenticaggio, le domani vado anche a tremulete e muti, e qualche volta me ne dimentico, la breccia mi rimuffi, di andare a cuccarmi, capi? Invece adesso non mi butti più, anche io da voi mani e tutti mi messo di sbarzacco in andata alla banca, così di me che mi ripiglio, capi? Se no qualche volta me ne dimentico. Poi io la prendo la mattina, la tua pastiglia, la trovo dalla dottoressa, dopo che ho fatto la visita al coso del cardiologo, e la sto prendendo la pastiglia, capito? La mattina me la sto prendendo la pastiglietta, basta, però, ma che sta a dire, non ho avuto nulla, io da quando, da dicembre la sto prendendo, là, da quando è morto mio fratello, e boh, mi è stata la pressione, ho preso una cosa, così, non soffrivo mai, pressione, va, soffro di pressione, da un momento all'altro, vabbè. E boh, mi ha detto, provo che sia roba di freddura, ha preso freddo, lo sai che mi alzo io, che vado a lavorare, non c'avevo nulla, tutto il giorno ho lavorato tranquillo, ho preso il caffè regolare, sono arrivato giù nel posto, poi ho messo la moto, ho timbrato, ho filmato, appena ci ho timbrato mi è venuto proprio, boh, non vedevo più nulla, cappuccino, a mazzinetta, ero imbriaco, boh, e vabbè, piano piano adesso già sto meglio, dai, tutto qua, vediamo, Bacchisio, avanti, grazie. Ehi, ma tu stai attento, ma quando ti capoteggia le cose vicino ti bussa la guida, stai arrombato, ti basaneggi, sino che senti che ti un po' ti ripeti, e bussa crabone di magari pure qualche caramella, ma magari avuto bisogno anche di zuccheri, e bussa crabone sempre di caramelle, tu o tre villaggi sempre. Anche se sono diabetico, un paio di volte mi scende la glicemia e mi mangio una caramella, o se no entro in un bar e mi bevo un caffè. E intanto vedi, adesso mi metto i zuccheri in tasca, adesso è stato rientro mercoledì e incomincio a lasciare qualcosa in tasca, così almeno quando mi sento un po' così mi prendo qualcosa, se no guai. Poi Iulia, grazie, gli ho detto, l'hanno cacciato di zebedi, ma zebedi che poi hanno venuto a me, in corpo non c'avevo nulla, solo il caffè ce l'avevo, solo acidi stavo facendo, acidi. Sai cosa che mi sono preoccupato? Scopo che io ho un calcolo alla CSFE e la prima ho fatto una visita al chirurgo, sconcio in lista d'attesa per intervento, e mi ha detto quando diventa giallo e sente i dolori va direttamente al pronto soccorso, ma insomma io dolori non ne avevo, giallo ero giallo, ma non ho dolori, nulla, zero, proprio zero negativo. E mi sono proprio visto questa roba gialla, mi sono preoccupato, sono con il suo coso di uovo, di uovo, poi giallo gialla, gli ho detto, boh, morendo so come. Avanti. Ma guarda che anche i calcoli, molte volte, non te ne rendi conto, non è fa dolore, però ce li hai i calcoli. Se invece mi devi andarci, secondo me, al pronto soccorso, perché al limite ti avrebbero fatto anche un flebo per aiutarti. Non è così, no, Mari. La prossima volta vai al pronto soccorso, ti chiami lo sento di sotto, dai, mi dica che via bene, niente, si butta niente, cosa ti nappi. I calcoli sono lontimi. C'è mia figlia qui che soffre di calcoli ed è in cura al Ghero. E io non vado al Ghero lo stesso. Io vado al Ghero dove c'è il centro analisi. A chi lo che non cavava mai azzura. E vado una volta all'anno, vado, mi visite già tutto quanto con le analisi, le porto tutto. Io ho un calcolo alla CSFE che me lo tengo sotto controllo quando vado a fare l'ecografia per il fegato. Una volta che faccio l'ecografia ogni anno, perché io al fegato ho 4-5 cisti, no? E me le tengo sotto controllo. Già lo sai, mio fratello ha avuto quel problema al fegato, comunque anch'io sono, noi in casa siamo soggetti. E ce l'ho già 5 anni, grazie a Dio già sono sempre fermi, sempre lo stesso diametro. Già due anni, c'ho un calcolo alla CSFE e me lo sto tenendo sotto controllo, capito? Siccome quando sono andato mi ha detto guarda quando diventa giallo e se dentro noi cerchi di andare a pronto soccorso, siccome prendo una pastiglia per il calcolo, ho più di un anno e mezzo che sto prendendo una pastiglia per la notte e una pastiglia per se riesce a scioglierlo, capito? Però ancora bene non ha fatto nulla, mi ha detto probabile se il calcolo è piccolino, probabile che riesce a uscirne direttamente, capito? Lei neanche se ne accorge, però continua a prendere la pastiglia, però io la metto in lista d'attesa per intervento. E mi sto preoccupato per quello, capito Graziano? E stavo sfruttando roba gialla, ho detto ma cos'è? C'è la roba, tutto qua, e avanti. Sta attento a chi parli così, al cistapello è pericoloso. A me mi si ingrossa spesso il fegato, dalle medicine che prendo. L'altra volta che mi ha visitato Luca Trentologo, che mi deve andare, mi lo devo telefonare, perché c'avevo l'appuntamento, però ho telefonato che era all'ospedale. E mi ha detto come ti riprendi un po', e ci mi telefoni e ti do l'appuntamento. E a me mi si ingrossa il fegato, da tutte le medicine che ho. E ce l'ho sempre sotto controllo, e mi visita quello, mi do caduta la bata, mi va di va le radiografie, tutto mi va di va, quando mi tocca la faccia che vede che ce l'ho gonfio, no? Capito? Occhio, tu la prossima volta intendi così, ciao, me lo sento di sotto, vai nei ghibi, uno sceglie a si buca niente, sarri la moto, la macchina, che ci vuoi che cosa ti nappi? Sì, la prossima volta faccio così, la prossima volta. Mi fermo. Ma chi è questo? È un privato, è questo del fegato? Oppure direttamente all'ospedale? Grazie. No, guarda all'ospedale, ma prima di arrivare a chi c'è un girato. Questo ce l'ho 20 anni, va. Mi ha salvato questo qui un sacco di volte. E tutti gli altri che ha avuto prima di questo non li ha fatti. Questo c'è proprio interessato, impegnato e tutto. Oh, la cura che faccio me la dà da questo e vado anche spesso da questo, così non ha più bisogno. Lui mi dice telefono, ti do l'appuntamento e vieni, e io dico ma non è che già mi sento bene, oramai lo so, se mi sento così mi faccio quelle pastiglie là, quei crostini là, e ma vieni lo stesso, capito? E quando intanto e tu mi visiti già a Roma stesso. E un po' di volte anzi mi riduce la medicina o me ne aumenta un po' di una e me ne leva l'altra, capito? Ma dov'è, l'ospedale o un privato questo? Prima era l'ospedale, adesso è in via Zamparino, alla mutua. Fa solo mutua adesso. Prima era l'ospedale rosso, quello che ne hanno buttato. E come si chiama? Dottor Cicco, se vuoi ti do il nome e il numero, ti pigli l'appuntamento. Sì, sono un chiamo, già venga a trovarti, grazie, così mi dai il nome, il cognome, il numero di telefono, così lo chiamo e il vostro appuntamento mi faccio controllare, perché io non so, ho queste quattro cisti sotto controllo, però faccio delle analisi, dei controlli ogni anno, però poco mi fido io. La dottoressa è troppo alla mano, capito? Vai tranquillo, ma poco mi vedo, vai tranquillo. Meglio essere più tranquillo, capito? Questo è bravissimo, ci ho mandato anche il mio ex principale a Virdisi, che studia Overplus, e non è in cura con lui lo stesso. Guarda, è bravissimo, dottor Antonio Cicco si chiama. C'ho il numero di tutti. Anzi, addirittura a me lui mi ha dato il numero di telefono di casa sua, se c'aveva urgenza, c'ho urgenza, a chiamarla a casa sua di sabato, di domenica, quando mi piazzi, capito? Vabbè, ti ha preso in confidenza, in coso, là, è come la dottoressa, c'ho io l'omologo, là, su qualcosa, la dottoressa Solinas. Io non faccio nulla, né ricetta, nulla, quando c'è la potenza salgo, tutto è da fare, non ho bisogno di fare nulla, non per il filo e niente, appena mi vede mi fa entrare veloce, mi fa la visita e ciccia, quella che mi ha dato la macchinetta del CIPAC, hai capito? Ma ci sono anni e anni, capito? Abbiamo una certa confidenza, adesso c'ho la visita a settembre, ho promesso, se c'hai problemi, l'ho fatta due mesi fa, se c'hai qualunque problema mi chiami e vieni, ti devo appuntare direttamente, capito? Una volta che ti prendo in simpatia c'è conferenza, capito? Ti vado ad entrare. Beh, grazie, io ne approfitto, là, se ho tolto in casa, a domani mattina se concilia, là. Ok, buona cena, a domani, grazie, ciao. Se ho tolto tutti gli ascoltoni e QRT per me. Ciao Marino, ho ricambiato al centro il tutto, e a domani avammi il vostro insulino, ciao, a domani. Ok, ciao.